un mare chiaro, l'ho vista sì, e abbiamo pure chiacchierato. Di sexy soccorride, amori d'alto mare, oltre quisquiglie di cultura generale, sì. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersi, ossi di seppia tondre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, apparsi in casa ad aspettare l'astronave. E l'astronave che arriva sembra amica, ma però non si ferma qui. Disegna un arcobaleno su nel cielo, poi fugge in direzione Palm Beach. E questo genere umano sembra vano, ma una logica ci sarà. Bon voyage, bon voyage, bon voyage, bon voyage. Dammi uno blocco dentro un alba boreale, un agiposto diventando addominale. È un sogno chi ci pompa magnetta che spillo, è un beauty case imitazione coccodrillo, sì. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere? Verrò con te, dovessi farlo di mestiere. Lungo le spiagge primordiali a commentare, ma guarda un po' com'è moderna l'astronave. E l'astronave che arriva gira a mille al panno, saluta un arcobaleno che sembra vero, poi fugge in direzione Malibu. E tutto il genere umano, un palmo di naso, tutti a chiedersi dove va. Bon voyage, bon voyage, bon voyage, bon voyage. Passate tu dove eri, nei vernissaggi, a festeggiare eroi leggeri.